Salva Danaio di Deborah Rosciani. A tutti buona giornata da Deborah Rosciani e benvenuti a Salva Danaio. Oggi torniamo dopo un po' di tempo a parlare di pensioni e di pensionati. Lo facciamo però per raccontarvi e spiegarvi meglio la vicenda con la quale abbiamo aperto il nostro giornale radio, una vicenda molto particolare che è stata riportata dalle pagine di molti quotidiani in questi giorni. A sentirla dire così sembra davvero paradossale. Pensate di ricevere una lettera dell'INPS che vi dice in sostanza: caro pensionato, 3 anni fa ti abbiamo dato una mensilità di pensione in più, una 14ª, perché hai un reddito basso e un assegno di pensione altrettanto sottile, ma c'è stato un errore, quindi dovrai restituirci questi soldi in 12 comode rate, quindi la tua pensione in tutto il prossimo anno si abbasserà. Cosa significa tutto questo? Per capire la storia bisogna fare qualche passo indietro. L'ultimo governo Prodi aveva introdotto la 14ª per i pensionati con più di 64 anni e appartenenti alla fascia di reddito più bassa, un'ulteriore mensilità quindi erogata a partire dalle dichiarazioni dei redditi dell'anno precedente e in base alle domande presentate con un'autocertificazione del reddito della persona. Dall'analisi dei redditi relativi alle 14esime del 2009, effettuata quest'anno, sono emerse però delle irregolarità e circa 200.000 pensionati, cifre confermate dall'INPS anche dallo stesso presidente Mastrapasqua, saranno probabilmente chiamati a restituire la cifra ricevuta, che verrebbe sottratta dunque dall'assegno previdenziale a partire da novembre di quest'anno e in 12 rate mensili. L'INPS sta già preparando le lettere informative, forse qualcuna ne è già stata diramata da inviare agli interessati, ma i sindacati dei pensionati, naturalmente, come potete immaginare, sono già sul piede di guerra, non sono assolutamente d'accordo su questo provvedimento, sostengono che l'errore è stato dell'istituto che doveva verificare meglio prima di erogare la cifra. Allora noi questa mattina ritorniamo su questa storia raccogliendo anche le vostre testimonianze e sperando anche di poter dare qualche consiglio utile a chi si troverà a gestire questa vicenda, perché avremo una sottrazione di una cifra da una pensione già magra, magrissima, e quindi questo è chiaro che comporta qualche disappunto, per chiamarlo con un eufemismo, nei confronti di chi subirà questa decurtazione. Allora, oltre il danno, la beffa: l'INPS vuole indietro da 200.000 pensionati la 13esima del 2009. Cosa ne pensate? 800 24 00 24, il numero verde che come sempre ci permette di raccogliere le vostre testimonianze che possiamo mandare in onda in diretta. In alternativa ci potete scrivere al 349 238 6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, oppure ci potete scrivere anche sul profilo Facebook salvadanaio-radio24. Allora, con noi questa mattina, con chi commenteremo tutta questa vicenda, Valeriano Canepari, presidente nazionale dei CAF CISL e della Consulta Nazionale dei CAF, ogni tanto ci aiuta su questi argomenti sempre spinosi e spiacevoli per i pensionati. Canepari, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti voi. Ben ritornato. Tra un po', grazie. Eccolo, no, l'abbiamo anche raggiunto telefonicamente, abbiamo con noi anche Antonio Pellegrino del Dipartimento Previdenza dello SPIC CGL nazionale, del sindacato dei pensionati italiani appunto aderenti alla CGL. Pellegrino, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Inutile dire che avevamo tentato di coinvolgere anche l'INPS questa mattina per tutta una serie di problematiche e di impegni precedentemente presi. Nessun funzionario dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha potuto mettersi a nostra disposizione e ne prendiamo atto. E allora, prima di partire con questo argomento, devo fare una precisazione, me lo hanno chiesto, io gentilmente accolgo questa richiesta, dalla Deutsche Bank, una precisazione relativamente alla trasmissione che abbiamo fatto ieri sui conti di deposito. Quando diamo delle informazioni non ovviamente precise, le aziende ci chiamano subito e ci chiedono di essere più chiari con i nostri ascoltatori. Ci è sembrato appunto corretto farlo anche in questa circostanza. Ieri un ascoltatore ci chiedeva delucidazioni su un conto di deposito di Deutsche Bank. Noi avevamo detto che in realtà Deutsche Bank non praticasse questa offerta commerciale in questo momento, spiegando che invece in circolazione ci fosse una sorta di pronto controtermine che riconosce la stessa remunerazione di un conto di deposito simile a quelli che in questo momento stanno distribuendo altre banche, quasi tutte le altre banche. Deutsche Bank stamattina ci ha scritto spiegando che invece c'è in distribuzione, in questo momento c'è un'offerta commerciale con un conto di deposito, e quindi noi stamattina lo diciamo, molti funzionari ieri della banca si sono arrabbiati, è giusto appunto dirlo, quindi sappiate che avevamo dato ieri un'informazione sbagliata. Detto questo, lasciamo le precisazioni sulla trasmissione di ieri. Oggi la borsa è negativa, pesano alcuni dati economici che sono arrivati dalla Cina, l'attività manifatturiera cinese continua a contrarsi e questo naturalmente si fa sentire, perché se si ferma la Cina qua è veramente finito, visto che tutta l'economia mondiale viaggia a marcia ridotta. Fino ad ora l'India e la Cina ci hanno aiutato molto, e se si ferma questo ammortizzatore veramente non sappiamo più che pesci prendere. E però per l'11° mese consecutivo l'attività manifatturiera cinese si è contratta e questo naturalmente pesa. Il mercato cinese viaggia ai minimi da anni e questo stamattina si ripercuote anche in Europa. Milano, la peggior piazza d'Europa, perde l'1,20%, mentre le altre piazze sono in calo ma inferiore. Parigi -0,8%, Francoforte -0,4%, Londra -0,6%, arretra anche l'euro sul dollaro, oggi a 1,29,44, e questo è il quadro di borsa in questo momento. La borsa la lasciamo, andiamo invece alla vicenda della quale vogliamo parlare oggi. Parliamo di pensioni e soprattutto delle 200.000 quattordicesime da restituire all'INPS. Sentiamo un facsimile della lettera che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni ai pensionati coinvolti in questa vicenda. Gentile signore, nel corso del 2009 le è stata corrisposta la somma aggiuntiva prevista dalla legge 127 del 2007, la cosiddetta quattordicesima. Tale importo, come già le avevamo comunicato nel corso del 2009, era stato determinato in via provvisoria, in attesa delle necessarie verifiche reddituali. Dall'analisi dei suoi redditi personali relativi all'anno 2009, ovvero 2008, qualora la sua pensione sia stata liquidata nel corso dell'anno 2009, è risultato che le è stata corrisposta la somma di euro 400 non dovuta. Siamo pertanto costretti a provvedere al recupero di questo importo mediante trattenute mensili sulla sua pensione, a partire dal mese di novembre 2012, per complessive 12 rate. Cordiali saluti, il direttore. Eccoci di nuovo in onda. Non ci eravamo neanche accorti che la lettera stava terminando, semplicemente perché mi sono accorta di un'imprecisione che ho detto, me l'hanno già segnalata molti ascoltatori, sarà il raffreddore questa mattina che già imperversa. Ovviamente non si tratta di una tredicesima ma di una quattordicesima mensilità, che era stata introdotta appunto da un provvedimento del governo Prodi e per la quale adesso l'INPS chiede la restituzione, ma non a tutti quanti i pensionati che l'hanno percepita nel 2009, solamente a coloro che l'hanno percepita ma non ne avevano i requisiti reddituali per averne diritto. Allora, Valeriano Canepari, presidente nazionale dei CAF CISL, vi risulta che già molte lettere di richiamo, chiamiamolo così, siano in circolazione fra i pensionati che quantomeno si rivolgono ai vostri sportelli? Ma per il momento non abbiamo ancora ricevuto segnalazioni consistenti rispetto a questo fenomeno. Noi abbiamo appena finito l'IMU in questi giorni, quindi non abbiamo, l'agenzia è venuta per questo, quindi su questa tematica non abbiamo ancora ricevuto nulla, ma sarà questione di giorni, perché da quello che sappiamo, avendo sentito anche l'INPS, le lettere stanno per partire o sono partite, quindi sono presso le poste per il recapito presso i cittadini. Quindi dai prossimi giorni, dalla prossima settimana, sicuramente queste centinaia di migliaia di persone si dovranno attivare. Quindi io ragionerei su due argomenti, credo, che di fronte a questi fatti. Il primo, come assistere, aiutare, consigliare le persone che ricevono questa lettera. Secondo, ragionare sul perché e come si fa per evitare queste situazioni nel futuro, perché noi parliamo più di questi, ma ne abbiamo tanti, gli esodati. Insomma, c'è una legislazione che è complessa, gestirla semplicisticamente porta a queste situazioni. Allora, sul primo tema io dico questo, insomma, bisognerà vedere ai soggetti a cui arriva la lettera, il consiglio è che vanno verificate situazione per situazione e quindi di recarsi al CAF, al patronato, al sindacato pensionati, perché si tratta di vedere la loro dichiarazione dei redditi relativa a quell'anno, quello che dice l'INPS, quello che risulta loro, e vedere quali sono i dati reali sulla base dei quali calcolare se il diritto sussisteva o non sussisteva. Ecco, questo credo che sia il primo messaggio di servizio, essendo questa una trasmissione di servizio, certo. Un messaggio di servizio, dire recatevi presso una di queste tre strutture con la dichiarazione dei redditi, o probabilmente l'avete fatta presso un CAF, e quindi verificare la congruenza dei dati contenuti nella vostra nella dichiarazione in vostro possesso e quella sulla base dei quali le informazioni fiscali sulla base dei quali l'INPS ha calcolato la perdita del diritto. E qui bisogna vedere situazione per situazione, perché diventa difficile fare ragionamenti di carattere generale, perché sono casi esattamente individuali. Anche perché come dire, siccome come sempre prevenire è meglio che curare, è abbastanza probabile anche ipotizzare che questa medesima situazione si potrà verificare l'anno prossimo, visto che questa quattordicesima comunque è una misura strutturale in corso, questo sostegno ai titolari di pensione basse che sono state introdotte, questo sostegno che è stato introdotto appunto nel 2007 con questa legge, la 127, una volta l'anno sono più di 3 milioni i pensionati che ricevono insieme alla pensione minima questa somma aggiuntiva. Se ogni anno si viene a manifestare un numero così alto di incongruenze, vuol dire che da qui in avanti avremo un problema tra una fetta molto ampia di pensionati che potenzialmente avranno questa decurtazione continua. E quindi chiedo un commento anche ad Antonio Pellegrino del Sindacato Pensionati Italiani aderenti appunto alla CGIL nazionale, del Dipartimento Previdenza del Sindacato Pensionati. Pellegrino, peraltro, è stato confermato questo incontro che avrete il 25 settembre con i vertici IMSS per chiarire meglio questa situazione? Sì, certo, è stato confermato, il 25 ci sarà questo incontro con la Direzione Centrale delle Pensioni, un incontro che abbiamo sollecitato da parecchio tempo, perché come spesso accade l'INPS arriva prima, manda le lettere ai pensionati, poi informa correttamente su quello che sta facendo, e questa volta è andata esattamente in questo modo. I pensionati vengono a sapere prima di noi che diciamo in qualche modo li rappresentiamo, che stanno per essere sanzionati per certe irregolarità secondo l'INPS compiuto. Ora, che cosa sta succedendo in verità? Questo è un fatto che riguarda il 2009, quindi la quattordicesima erogata nel 2009. Le lettere che stanno arrivando, e noi abbiamo notizia di diverse lettere che stanno arrivando da più parti d'Italia, perché arrivano prima il sindacato dei pensionati e poi evidentemente si rivolgono anche alle strutture di servizio dei sindacati. Non tutte riguardano la restituzione dell'intera quattordicesima, ma molte riguardano invece la restituzione di una parte della quattordicesima, perché il meccanismo per il calcolo del dovuto è fatto in base a un reddito minimo e massimo, e dentro a questa forbice di reddito la quattordicesima spetta per intero oppure in misura ridotta. Qual era l'importo massimo che si poteva percepire? L'importo massimo era sul reddito massimo nell'anno 2009, era di 9.430 euro all'anno per 13 mesi, quindi circa 600-700 euro. L'importo minimo era 686. In questo margine c'è la possibilità di avere per intero la quattordicesima oppure per averla in misura ridotta. Molte lettere contestano non l'intera quattordicesima ma una parte della quattordicesima. Ora, che cosa sia accaduto francamente a questo punto non lo sa nessuno, perché speriamo di saperlo il giorno 15 quando ci incontreremo. Il 25, sì. Il 25 quando ci incontreremo. Perché il 15 è già passato. Che cosa lamentiamo noi a questo punto? La prima questione sono i termini molto ristretti. L'INPS dà 30 giorni di tempo, ma nel frattempo le trattenute le fa dal mese di novembre. Quindi i pensionati riceveranno entro settembre, perché le lettere stanno per arrivare, sono partite, sono nelle mani delle poste, riceveranno questa comunicazione, hanno un mese di tempo per rivolgersi al sindacato, al patronato, al CAF, per fare eventualmente le correzioni, eccetera, ma nel frattempo dal primo di novembre le trattenute verranno effettuate sulle pensioni. Ecco, questo è un modo di procedere che è il nostro problema. Allora, va bene, perché sì, certo. Scarica sui pensionati dei tempi che in qualche modo l'INPS si è preso comodamente, perché stiamo ragionando dal 2009 a oggi, stiamo ragionando di ieri. Ci sono molti commenti di molti ascoltatori che, come spesso capita, e questo commento arriva sia che si parli di redditi alti o di redditi bassi, che comunque commenti abbastanza concordi nel sostenere che se si tratta di aver percepito qualcosa di cui non si si aveva diritto, bisogna restituire. Io questo lo posso anche capire, senz'altro, però voi immaginate anche un pensionato che porta a casa 600 euro al mese, vive di quello, e c'è un provvedimento che ti dice: guarda, io quest'anno ti do questa quattordicesima. Cioè, facciamo anche le dimensioni di quello di cui stiamo parlando, perché qua non stiamo parlando di qualcuno che prende 3.000 euro al mese, gli arrivano 500 euro in più e magari ci prova. Era un po' anche come era successo per il bonus bebè. Qui, quando si viaggia con l'autocertificazione, qualche volta si possono generare anche delle come dire, difficoltà di questo tipo, di comprensione anche di meccanismi con cui questi strumenti di sostegno finanziario appunto vengono distribuiti. Per cui io voglio dire, il maltolto, la parola maltolto non mi piace in una circostanza come questa. Poi capisco che magari queste persone non ne avessero diritto e erroneamente hanno fatto ugualmente un'autocertificazione pensando di essere appunto nei requisiti per poterla percepire, però voglio dire, parliamo pur sempre di pensionati che vivono con 600 euro al mese, per cui vorrei soffermare un attimo l'attenzione di tutti quanti su questo. Ci fermiamo perché abbiamo già forse la prima pausa, ma magari ce la facciamo ad ascoltare la telefonata di Massimo. Massimo ci aveva, sapendo della trasmissione della quale avremmo parlato oggi, ci ha scritto questa mattina raccontandoci l'esperienza di suo papà, che percepisce lo stesso una pensione molto bassa, ma per la verità è tartassato dall'INPS su una richiesta di restituzione progressiva che non riguarda solamente la quattordicesima percepita, Massimo, se non sbaglio, nel 2009, ma l'INPS richiede un conteggio continuo delle somme che suo papà percepisce, giusto? Massimo, sì, ci sente? Sì, buongiorno. Sì, che cosa è successo? Ce lo racconta? Allora, interessante, diciamo che mio padre può essere fortunato, nel senso che di lettere ne ha ricevute ben 5 con cui si richiedono i conguagli, quindi dal 2009 a oggi chiaramente ogni anno più o meno l'INPS gli fa i conteggi e dice che deve restituire somme che vanno da 241 a 1619 con rate di 24 mesi, 20 mesi e tutto quanto. L'ultima è di quest'anno, che deve restituire 700 euro in 24 rate mensili. Tengo presente che mio padre quest'anno ha fatto la dichiarazione dei redditi, compreso l'immobile in cui abita, ha un reddito di 7.000 euro e non ha percepito la quattordicesima quest'anno. Cioè quest'anno non gli è stata proprio erogata. Perfetto, d'accordo Massimo, grazie per averci raccontato quello che le è successo. Scusi tanto signora, sa dov'è che danno le pensioni? Di là? Grazie. Molto gentile. Vieni. Chi è? Io, Fantozzi. Qui, carissimo Fantozzi, come va? Anche per prendere la pensione, suppongo. Sì, la ce l'hanno, mi ha detto. Ma dove andiamo? Lì, venga, l'accompagno. Ah, grazie. Fantozzi, che pacchia questa pensione. Si prendono i soldi senza lavorare. È qui. Grazie. Sì, è vero, ma non so, lei al mattino ogni tanto non sente come un... Giramento di testa? No, è... come un chissà che o quale altro giramento avranno sentito in questi giorni i pensionati che hanno sentito parlare della vicenda della quale parliamo noi oggi a Salvadanaio. Si saranno probabilmente sentiti un po' Fantozzi, perché se percependo 400, 500, 600 euro al mese le pensioni minime, le pensioni più basse, e nel 2009 si sono percepite appunto queste quattordicesime previste dalla legge 127 del 2007, c'era Prodi al governo in quel periodo, e adesso l'INPS chiede una restituzione perché, siccome questa quattordicesima era erogata sulla base di un'autocertificazione di questi redditi, l'INPS riscontra che queste autocertificazioni erano sbagliate, dal riscontro tra pensioni percepite appunto e redditi complessivi del pensionato in questione, appunto l'INPS ha verificato che per la verità invece di queste quattordicesime non si avevano diritto, e da novembre cominceranno appunto all'Istituto di Previdenza Sociale a decurtare le pensioni di questi pensionati fino alla restituzione appunto della somma erroneamente erogata. Tutta questa vicenda chiaramente sta destando molta preoccupazione nei confronti in queste persone che ovviamente campano con queste cifre così basse. È chiaro che se l'autocertificazione è stata fatta in maniera errata questi soldi vadano restituiti, però ci lascia un po' tutto un amaro in bocca questa vicenda. Con noi questa mattina stiamo parlandone con Valeriano Canepari, presidente nazionale dei CAF della CISL, e Antonio Pellegrino del Dipartimento Previdenza del Sindacato Pensionati Italiani della CGIL Nazionale. Molti ascoltatori pronti ad intervenire. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande in diretta. Prima di commentare il caso che abbiamo ascoltato in precedenza, quello di Massimo, e prima di sentire Giuseppe, Giuliano e Daniele, volevo però ricordare, magari con Canepari, anche quelli che erano e quelli che sono i requisiti fondamentali per l'ottenimento della quattordicesima, perché ancora viene erogata, distribuita regolarmente, ma qua, se adesso i parametri vengono controllati in maniera così, così accurata, c'è il rischio che dai prossimi anni ci ritroveremo a parlare della medesima vicenda della quale parliamo oggi. Canepari. Questo rischio c'è. In tanti soggetti che potevano usufruire di questa opportunità erano lavoratori, erano pensionati, ex lavoratori dipendenti o ex lavoratori autonomi, quindi l'intera categoria dei pensionati, che avevano allora compiuto 64 anni di età e che non avevano redditi personali, quindi del singolo soggetto, superiore a una volta e mezzo l'importo del trattamento minimo, che varia, che come ha detto il collega della CGIL, può variare poi negli anni. Questi erano i soggetti che potevano usufruire della quattordicesima. Quali erano i redditi che dovevano essere verificati? Sostanzialmente, per aver diritto a questa opportunità bisognava tener conto di tutti i redditi personali valutati al lordo, con la sola esclusione dei redditi derivanti dalla casa di abitazione, no? Dagli assegni percepiti per il nucleo familiare, dalle indennità di accompagnamento e dai redditi derivanti dal pagamento dei trattamenti di fine rapporto o di tassazione separata. Ecco, quindi questi erano quelli esclusi. Tutti gli altri definivano il reddito su cui si doveva calcolare il diritto alla quattordicesima. Ma ecco, tutti questi aspetti non dovevano essere specificati nel documento di autocertificazione che i pensionati dovevano presentare per far richiesta di questa quattordicesima? È chiaro, come io li sto elencando in questo momento, così dovevano essere chiari nel documento con cui il pensionato è certificato. Però l'INPS ha fatto anche queste analisi sui propri archivi. Questo è un altro dei temi, nel senso che l'INPS ha archivi che implementa negli anni, e quindi una buona parte di analisi, di valutazioni sulla corrispondenza fra il reddito e il diritto è stato fatto, e poi è stato evidenziato a chi non arrivava la quattordicesima che poteva farne domanda. Ecco, quindi qui si apre un tema che può essere affrontato in un secondo momento, della gestione dei dati così complessi e di una normativa così complicata. Ecco, la procedura è stata questa. È evidente, queste procedure che riguardano milioni e milioni di persone, con una normativa che è quasi personale, perché abbiamo una normativa previdenziale molto articolata, certo. Ecco, i dati rischiano di dover essere visti di volta in volta, perché ci sono delle variazioni che di anno in anno possono cambiare qualche cosa. Tutte le volte questo che comunque si fa una distribuzione di sostegni finanziari col meccanismo dell'autocertificazione, però Canepari succede sempre questo, perché anche per una cosa banalissima come il bonus bebè, lì non è che c'era una situazione molto complessa come quella dei pensionati che magari vanno in pensione con lavoro dipendente, autonomo, eccetera. Anche lì lo stesso, le restituzioni poi anche in quel caso sono state pesantissime, no? Se lo ricorda. Assolutamente, me lo ricordo benissimo. E guarda caso che di che cosa stiamo parlando? Di due situazioni economicamente e socialmente deboli. Poi lei lo diceva prima, no? Se hanno avuto in più è giusto che restituiscano. Il concetto è indiscutibile, però guardiamo di chi stiamo parlando. Anche nel caso a cui faceva riferimento del bonus bebè, erano tutte persone che dovevano avere determinati requisiti reddituali e situazioni familiari, certo, di un certo tipo, e lo stesso vale qui. Allora anche qui 2008-2012 la verifica è stata fatta a giugno, partiamo a ottobre, insomma prendiamoci un po' di tempo, anche perché è sempre reddito spendibile che viene meno sul mercato finanziario. Infatti. In un momento in cui credo che non aiuti nessuno. Capirai, insomma, quali spese, i pensionati con queste modestissime cifre ci pagano le bollette e poco altro. E i supermercati per la spesa. Infatti. Parliamo di questo. Ci siamo soffermati sulla questione dell'autocertificazione per fare richiesta di questa 14ª. In realtà c'è Daniele da Roma che vuole raccontarci qualcos'altro che è successo a sua mamma. Se non ho capito male, Daniele, sua mamma la percepisce ma non ha fatto nessun tipo di autocertificazione. Buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io volevo dire proprio questa cosa, che a mia madre da novembre gli fanno questa ritenuta, è andata all'INPS e praticamente ha constatato questa cosa, ma lei non ha mai fatto l'autocertificazione, ha un piccolo reddito aggiuntivo che non le permette giustamente di averlo, ma lei non ha mai chiesto di avere questa cosa. Lei praticamente se l'è ritrovato, siccome è una persona semplice, no, l'ha ritrovato, quindi dice sarà parte della pensione. Certo. Daniele, non è che magari il CAF che la segue costantemente lo ha fatto per lei, sua mamma non se lo ricorda? Glielo dico non perché per far passare, perché per esempio mia mamma, che si rivolge ad un CAF per tutta una serie di questioni che abbiamo, molto spesso loro si propongono: guarda, ti faccio questo e questo, e qualche volta può capitare che lei non se lo ricordi tutto là. Lei questa è sicuro che non l'abbia fatta? È sicura, perché glielo faccio io le autocertificazioni, faccio tutte le cose, gliele svolgo io, le faccio e quindi ne ha la certezza. L'unico. Quindi sono certo di questa cosa e quindi mi sono rimasto un po' perplesso. Stamattina lei è andata all'INPS e praticamente si è trovato l'addebito che avrà per circa 10 mesi di una quota, mi sembra che è intorno alle 80 euro e che dovrà restituire. Daniele, infatti voglio sentire Antonio Pellegrino su questo. C'è anche una fetta di pensionati che percepisce questa 14ª ma non ha presentato nessun tipo di autocertificazione. Pellegrino, ne risulta? Guardi, la procedura, diciamo, sembra complessa, in verità non è così complessa come appare. Dunque, la cosa funziona così: l'INPS eroga la 14ª sulla base, diciamo, dei redditi compatibili con la prestazione. Una parte di questi redditi li conosce direttamente, perché si tratta di prestazioni previdenziali di cui l'INPS è sicuramente a conoscenza attraverso il casellario, eccetera. Altra parte di reddito può essere reddito diverso da prestazioni previdenziali, era stato citato quali possono essere i redditi, diciamo così, influenti, e questi redditi sono conosciuti dall'INPS attraverso una dichiarazione che il pensionato deve fare, altrimenti la 14ª non gliela danno. Quindi va presentato un modello, che è un modello relativo al reddito dell'anno in corso, dell'anno precedente. Su questo modello l'INPS lo ha controllato attraverso anche le informazioni dell'Agenzia delle Entrate. Che cosa può essere accaduto? Ma noi non lo sappiamo, perché diciamo il 25 forse qualcuno ci spiegherà, a noi ma anche al Paese, che cosa sta accadendo. Ci possono essere degli errori fatti dal pensionato, ma anche degli errori fatti dall'INPS e persino degli errori fatti dall'Agenzia delle Entrate. Le cito un caso di reddito: i sussidi che i comuni danno ai cittadini bisognosi non interferiscono con la 14ª, non sono, diciamo, influenti sulla misura, ma bisogna vedere come sono stati presentati questi redditi e come sono stati dichiarati, non so se è chiaro. Quindi basta, perché in questo caso bastano 100 euro in più o in meno all'anno per far variare l'importo della 14ª, quindi stiamo parlando di redditi molto bassi, perché la prestazione è legata a redditi molto bassi. Ecco, quindi nel caso di Daniele, quindi secondo lei che cosa può essere successo? Intanto non mi ritorno gli 80, come l'avrà tenuto, gli 80 euro al mese, perché 80 euro per 10 mesi fa 800 euro, la 14ª non supera i 500 euro nell'anno, quindi sicuramente può essere qualche altra cosa. In ogni caso io suggerirei anche alla persona di prima, a Massimo, di rivolgersi al sindacato o sicuramente a un istituto di patronato o a un CAF per farsi assistere quando ci sono queste reiterate richieste di infatti, perché lui veramente una all'anno, cioè addirittura ce n'era una che gli è stata chiesta di 1600 euro. Si tratta di una disgrazia, lì una ragione ci sarà, o una ragione fondata oppure una ragione infondata, ma bisogna andare ad accertare questa ragione. Pensionati che devono restituire la 14ª, quella senza diritto, percepita nel 2009. Allora sentiamo qualche altro caso per poi andare già purtroppo verso la conclusione, ma guardate, questa è una vicenda sulla quale abbiamo intenzione di continuare a vigilare ascoltare attentamente. Magari lo faremo subito dopo il 25 settembre, quando all'INPS sono stati convocati i sindacati dei pensionati per discutere su quello che è successo e sulle modalità anche con cui questa dirompente iniziativa dell'INPS di sottrarre, di riprendersi appunto quanto preso in più da questi pensionati, per discutere appunto di queste modalità che partono da novembre, quindi da novembre pensione decurtata per chi già la percepisce al minimo. Volevo sentire Giuseppe da Milano, che ci dà modo appunto di affrontare il tema delle pensioni di reversibilità. Giuseppe, buongiorno. Grazie, buongiorno. Ci dica. Una cosa al volo. Mio papà ha sempre preso la quattordicesima, ha una pensioncina di 600 euro all'incirca, e assieme a mia mamma, che l'anno scorso è morta, prendeva la sociale, oltre all'accompagnamento perché non stava bene. Niente, l'anno scorso è morta, quest'anno mio papà, a fine giugno, quando dava la quattordicesima, non è gli arrivato niente praticamente. L'ha sempre preso. È andato all'INPS e l'INPS gli hanno detto, ma perché sua moglie è morta, lei ha la reversibilità. No, scusi, cioè l'INPS stesso che chiede a mio padre che non può dargli la pensione perché mia mamma, essendo morta, ha detto all'INPS che mio padre prendeva la reversibilità sulla pensione sociale, non sapendo che la sociale non è reversibile. E l'INPS stesso non gli ha dato i soldi per questo motivo. Mio padre gli ha in ballo per avere i soldi. Giuseppe, la ringrazio per la sua testimonianza. Un altro caso appunto piuttosto paradossale. Valeriano Canepari, cosa ne pensa? No, intanto per esempio, se appunto queste pensioni basse, queste pensioni al minimo, sono reversibili per il coniuge superstite? Ma guardi, io adesso non sono un esperto di patronato e quindi non entro nel merito di cose sulle quali poi si rischia di dare informazioni sbagliate, perché c'è una, come dicevo, una normativa veramente complessa. Io credo che siamo di fronte a una gestione un poco superficiale di queste tematiche, perché anche da parte dell'INPS c'è una non sufficiente valutazione delle problematiche che riguardano le persone, perché dietro queste pensioni poi ci sono persone che vivono anche situazioni difficili e drammatiche come quella che ci richiedeva l'ascoltatore. All'ascoltatore io consiglio di rivolgersi a un patronato, perché queste sono situazioni complesse che poi riverberano effetti anche negli anni successivi, come abbiamo visto, e quindi il patronato è il soggetto più adatto professionalmente per rispondere e per gestire queste problematiche che sono veramente complesse. Io credo che ci sia la necessità di fare più chiarezza, di gestire con maggiore attenzione quelle che sono le competenze economiche che riguardano i cittadini, in questo caso i pensionati. Insomma, il responsabile del sindacato pensionati della CGIL faceva una valutazione: com'è possibile che non ci sia stato un confronto preventivo? Non è possibile mandare 200 lettere a queste persone senza prima avere fatto una valutazione, vedere prima, confrontarsi se le richieste sono corrette, saranno corrette, perché è probabile che ci siano degli errori e quindi genereremo ulteriori cose. No, pare che anche da quello che mi hanno detto all'INPS, che comunque c'è stato questo rigidissimo controllo dei dati, appunto incrocio tra i requisiti della richiesta di questa autocertificazione e poi la dichiarazione dei redditi, perché stiamo parlando appunto di quattordicesime distribuite nel 2009, siamo nel 2012, evidentemente appunto c'è stato tutto il tempo per fare, per cui loro le ritengono assolutamente giuste. Potranno essere assolutamente giuste, ma per esempio noi lo sappiamo, perché operiamo con l'INPS per una serie di cose, sappiamo che l'INPS non è in grado di interpretare i dati dell'Agenzia delle Entrate, perché vengono forniti in un modo diverso rispetto alle esigenze di conoscenza dell'INPS, perché l'Agenzia delle Entrate li richiede costruiti in un certo modo perché li utilizza per certi scopi, l'INPS li usa per altre esigenze. I due modi con cui vengono forniti questi dati non sono compatibili, perché sono compresi redditi diversi che non servono all'uno o all'altro, e quindi alcune analisi che l'INPS può fare sulla base dei dati dell'agenzia possono non essere congruenti. Allora, Antonio Pellegrino, vengo a lei, stiamo avvicinandoci alla chiusura del nostro programma, e chiedo un commento se vuole sul caso di Giuseppe da Milano che abbiamo sentito prima, il tema della reversibilità, se nel frattempo il pensionato che ha percepito indebitamente questa quattordicesima nel 2009 fosse passato a miglior vita nel frattempo, secondo lei, ovviamente ovviamente non c'è possibilità di rivalersi sugli eredi, immagino, a meno che non ci sia appunto un coniuge superstite che percepisce la reversibilità. Lei ci può aiutare a chiarire magari questo caso? Ma intanto, diciamo, in linea teorica, a meno che poi dal 25 non vengano fuori dal cilindro altre soluzioni. Il famoso incontro. In linea teorica la cosa sta più o meno così, la vicenda. La quattordicesima è legata alla persona e quindi al reddito personale. Nel caso di decesso di un titolare di pensione con diritto alla quattordicesima, quello che si trasferisce alla vedova o al vedovo non è la reversibilità più il diritto alla quattordicesima, ma si trasferisce solamente la reversibilità. Dopodiché il nuovo soggetto titolare di pensione dovrà essere valutato in base al reddito personale per vedere se ha diritto o non ha diritto alla quattordicesima. Non c'è un trasferimento della quattordicesima, è chiaro questo concetto, certo, no? Quindi ognuno, speriamo, diciamo, ha diritto alla sua quota di quattordicesima nei limiti del proprio reddito individuale. Quindi senza teoricamente se il coniuge non c'è più, se la persona, il pensionato che ha percepito la quattordicesima non c'è più, diciamo teoricamente questo problema della potenziale restituzione dovrebbe essere deceduto con lui. Speriamo, sì, ecco, perlomeno poi non è detto mentre il superstite potrebbe avere diritto alla quattordicesima sulla reversibilità, ma quello diventa un diritto autonomo della vedova o del vedovo. Allora, questa è la prima cosa. Posso aggiungere un'altra seconda certamente cosa? Certamente, come conclusione, grazie. Che ha inviato l'INPS, ma proprio a conferma di quello che diceva prima il presidente del CAF della CISL. Le lettere che ha inviato l'INPS sono lettere generiche, perché quando si dice abbiamo accertato che la sua quattordicesima eccetera eccetera, non dicono perché, per cosa, se l'accertamento è a seguito del diciamo della dati dell'Agenzia delle Entrate oppure no, se sono dati già in possesso dell'INPS di cui l'INPS si è accorta con ritardo, cioè, perché sono condizioni molto diverse tra di loro. Infatti. Quindi la prima darebbe diritto all'INPS a richiedere indietro le somme, la seconda per esempio no. Ecco, quello che noi lamentiamo, deve essere molto chiaro, è che l'INPS su queste materie procede sempre unilateralmente e fa sempre disastri. Allora, Canepari e Pellegrino, siete riconvocati qua tra il 26 e il 27 per capire che cosa è successo dopo questo incontro e cosa succederà soprattutto a novembre per i pensionati coinvolti in questa vicenda un po' bruttina, non ci è piaciuta per niente. Grazie a tutti, ci sentiamo lunedì, domani con voi c'è Valentina Furlanetto, a tutti da parte mia buon fine settimana.